Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. L'Unione Europea si prepara a festeggiare in grande stile domani la festa dell'Europa, con cui ogni anno si ricorda la dichiarazione Schuman, 9 maggio 1950, che di fatto rappresenta l'inizio del processo di integrazione europea, una data fortunata anche considerato il fatto che è il giorno successivo rispetto all'8 maggio in cui i paesi europei festeggiano la fine della guerra mondiale. Ma insomma, naturalmente quest'anno si arriva a questo evento con tutto il portato della crisi, crisi che investe in pieno l'Unione e le istituzioni. Allora noi cominciamo questo appuntamento sentendo il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che fa una sorta di augurio e lo fa in lingua italiana. Sentiamolo. Festa dell'Europa. Cosa dobbiamo festeggiare? Celebrare l'Europa oggi vuol dire impegnarsi per cambiarla. Abbiamo bisogno di un'Europa più democratica, più trasparente, più giusta. La festa dell'Europa serve come monito per il futuro. I diritti e le libertà che diamo per scontato sono il frutto delle battaglie fatte dalle generazioni prima di noi. Celebrare l'Europa oggi vuol dire non dare per scontati i valori europei, ma renderci conto che solo insieme possiamo difenderli. Solo insieme possiamo rendere l'Europa di domani il luogo dove i nostri figli possano vivere in pace, libertà, solidarietà e prosperità. E a proposito di aspettative, di rappresentazione, vi aggiorno sull'andamento del nostro sondaggio. Dice: l'Europa cosa rappresenta e come la vorresti? Bene, per adesso la maggior parte delle risposte sono concentrate su un'occasione persa e alla domanda cosa vorresti dall'Europa, vorrei meno burocrazia. Naturalmente questo è un sondaggio che andrà avanti fino a sabato, lo tirerà le fila di queste domande Federico Taddeo nel consueto appuntamento di sabato mattina alle 10 con l'altra Europa. Intanto Europa, burocrazia e privilegi, ecco, direi un tema perfetto per lanciare il prossimo servizio. Infatti i dipendenti delle istituzioni pubbliche europee hanno fatto sciopero, hanno scioperato contro i tagli per paura di un futuro meno protetto, partendo però dalla considerazione che oggi sono tra i meglio pagati in Europa. Gli stipendi di base partono dai 4.000 euro lordi. Sentiamo il servizio. Avrebbe dovuto essere un normale martedì di lavoro a Bruxelles, ma i corridoi delle istituzioni pubbliche erano un po' troppo vuoti, le luci di molti uffici spente. I dipendenti infatti hanno fatto sciopero con una partecipazione altissima del 90%. Hanno protestato contro i possibili tagli al bilancio che potrebbero pesare sui loro salari. Si parla di 7 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. In un momento in cui Commissione, Consiglio e Parlamento non fanno altro che chiedere ai governi nazionali di stringere la cinghia, anche ai dipendenti pubblici di Bruxelles viene chiesto di fare la propria parte. Ma il sindacalista Félix Gérardon dei dipendenti pubblici europei non è d'accordo. Well, it's not really a problem of how much we earn now, but it's a problem of how much the future colleagues will earn and our Il problema non è quanto guadagniamo noi ora, ma quanto arriveranno a guadagnare i nostri colleghi in futuro. La limitazione poi delle pensioni, la Commissione ha calcolato che nei prossimi 15 anni ci sarà una perdita del potere d'acquisto del 60%. Non è d'accordo il premier inglese David Cameron, secondo il quale bisogna mostrare solidarietà da Bruxelles a quei dipendenti pubblici degli Stati membri a cui sono state imposte misure di austerità per combattere la crisi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Valentina Furlanetto, e le interviste sono state realizzate da Maeve McMahon dalla sede di Euronet Plus di Bruxelles. Sono Federico Taddia e vi segnalo un'iniziativa in programma tra pochi minuti in occasione della Festa dell'Europa e che darà la possibilità di interagire in diretta con Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'industria e l'imprenditoria. Dalle 14.30 di oggi, infatti, sulla pagina Facebook di ANSA Europa sarà attiva una chat attraverso la quale mandare in tempo reale domande al commissario sui temi di sua competenza, come l'accesso al credito, le nuove imprese, i ritardi nei pagamenti e i tagli alla burocrazia. La situazione di molti stati europei non ha precedenti dal dopoguerra e servono risposte politiche concrete. È quello che ha detto Tajani nel presentare l'appuntamento, ricordando poi come la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 diede prospettive di libertà, pace e benessere alle nuove generazioni. Tutte le domande vanno inviate alla pagina facebook.com/ansaeuropa. E naturalmente ritrovate tutto su radio24.it. Fabio Cantadori in regia, Gigi Donelli al microfono. Europa 24 torna domani alle 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.